mi occupo di questo caso praticamente dal giorno dopo l'incarcerazione di Patrick. Sono stata raggiunta da una telefonata dell'Università di Bologna, da una docente, e ho preso a cuore questa cosa e ho portato il caso in Commissione Diritti Umani quando ancora il caso di Patrick non aveva la risonanza mediatica di cui gode oggi. Ho studiato a fondo le cose, mi sono confrontata anche con degli esperti del diritto internazionale e ho compreso che oltre alla richiesta di concessione della cittadinanza italiana partita con questa petizione sottoscritta da molti cittadini, bisognava pensare ad un qualcosa che ponesse la questione in un solco diplomatico percorribile all'interno di convenzioni sottoscritte da entrambi i paesi. Una di queste è la Convenzione ONU del 10 dicembre 1984 contro i reati di tortura, i trattamenti umani degradanti. Dal confronto con questi esperti è emerso che questa via è certamente una via che potrebbe portare ad una risoluzione della vicenda di Patrick Zaki seguendo un iter pacifico, cioè all'interno di convenzioni comunque, come dicevo, sottoscritte da entrambi gli stati. Un percorso che potrebbe configurarsi con l'avvio di vari strumenti e che quindi, diciamo, è il percorso giuridico che si dovrebbe seguire per rimanere nel perimetro delle diplomazie internazionali e degli strumenti che sono messi a disposizione degli stati. Un percorso che potrebbe essere anche più largo dell'Italia, perché ad esempio Francia e Austria hanno, come dire, casi simili. Francia, Austria, anche Germania è coinvolta, ora la Gran Bretagna non è più parte dell'Unione Europea, però anche la Gran Bretagna è coinvolta da un caso simile, quindi certamente potrebbe avere anche una eco più ampia. Infatti nella mozione che io ho presentato ho chiesto che ci sia tra gli impegni, avevo chiesto anche di dare impulso a livello europeo e internazionale ad una azione, diciamo, concertata, adeguata, che porti l'attenzione non solo sul caso di Patrick Zaki con anche l'avvio di iniziative comuni, ma che riguardi un po' e porti un po' l'attenzione sul caso più in generale della repressione nei confronti dei difensori dei diritti umani e dei diritti civili, perché comunque noi oggi ci troviamo in un contesto internazionale in cui i diritti umani, i diritti civili e chi li difende si trovano in pericolo. Non abbiamo solo il caso dell'Egitto. Cioè, l'Egitto si incastona in un quadro più ampio, quindi è giusto ragionare anche in un quadro più ampio, anzi è essenziale, tant'è che nella mia mozione io chiedevo all'ultimo punto che l'Italia e il governo italiano si facesse portatore attivo della cultura del rispetto dei diritti umani, della promozione dei diritti umani in un consesso internazionale come quello del G7, in cui l'Italia è impegnata alla presidenza e che ha come, diciamo, motto tre assi prioritari: persone, pianeta e prosperità. Dunque, questo è un consesso internazionale, secondo me, ideale, presieduto dall'Italia, in cui l'Italia deve farsi promotrice di questo dialogo, perché i diritti umani, i diritti civili non sono negoziabili. Dunque, quando noi ragioniamo in modo più ampio anche di rapporti tra i vari paesi su vari piani economici, diplomatici, di ricerca, di studio, eccetera, eccetera, dobbiamo sempre pensare che comunque sullo sfondo, ma non sullo sfondo perché sono meno importanti, sullo sfondo perché sono quelli fondamentali, che quindi costituiscono l'habitat in cui poi noi ci muoviamo, c'è appunto il rispetto dei diritti umani civili. Per la vicenda di Patrick sollevo un'altra questione, quella della libertà accademica, della libertà di ricerca nazionale e internazionale, e anche deve far riflettere sull'importanza della mobilità internazionale dei nostri studenti e dei nostri ricercatori, perché, come dicevo ieri in aula, da questa mobilità internazionale di studenti e di ricercatori nascono poi quegli incubatori di confronto, di idee e di cambiamento, che sono poi quelli che danno quelle spinte propulsive davvero talvolta verso il cambiamento, un cambiamento poi e quindi un miglioramento di cui poi usufruiamo tutti, quindi sono incubatori preziosi che noi dobbiamo proteggere e promuovere in questo periodo di pandemia. A me spiace tantissimo che tanti studenti non riescano a vivere un'esperienza di scambio internazionale, perché è un aspetto prezioso E il caso di Patrick accende una luce anche rispetto ai pericoli che possono nascere, diciamo collaterali, no? A una questione di incarcerazione per altre ragioni, però va a intaccare anche ad un aspetto invece molto importante, che è la mobilità studentesca e l'importanza che essa ha.